Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Nella puntata di ieri abbiamo parlato dell'autorizzazione unica introdotta nel 2003, concepita per semplificare l'iter autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È una procedura che raccoglie al suo interno tutti i pareri necessari per avere appunto l'autorizzazione a costruire ed esercire un impianto. Alla legge avrebbero dovuto fare seguito le linee guida che però non sono mai arrivate, col risultato di condurre a un certo caos normativo. Ne parliamo con Lucia Bitto, responsabile legale di APER, l'associazione produttori energie rinnovabili, che è tornata a trovarci. Buonasera Bitto, benvenuta a Mr. Kilowatt. Buonasera, grazie. Dunque, cosa sono le linee guida e cosa comporta la loro assenza? Allora, le linee guida correttamente erano previste dall'articolo 12 e avrebbero dovuto disciplinare in via di principio lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e assicurando nel contempo un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, che sappiamo sono un po' più visibili. Ci terrei subito a precisare però che l'assenza di linee guida non era un ostacolo all'applicazione della disciplina del procedimento di autorizzazione unica, così come prevista dall'articolo 12 in modo abbastanza puntuale. Cos'è successo però? Le regioni hanno pretestuosamente invocato l'assenza delle linee guida per dotarsi di normative che in effetti contrastano con i principi fondamentali dettati a livello europeo e nazionale, quindi quella della massima diffusione delle fonti rinnovabili, quello della semplificazione dei procedimenti, sono andate proprio al contrario. Un po' a remare contro. Ecco, tipicamente quali sono le posizioni che assumono magari le regioni e che sono in contrasto con questi principi? Può fare qualche esempio? Certamente, abbiamo visto molte ipotesi di contingentamento sia della potenza sia del numero di impianti, ovvero sia disposizioni che dicono proprio mettono così. Un tetto, mettono praticamente un tetto, sia di potenza, quindi è vietato realizzare impianti eolici oltre i 500 kilowatt o megawatt, insomma, sul territorio regionale, appena abbiamo visto veramente di ogni tipo, oppure addirittura fissano un numero massimo di impianti. Per esempio la regione Molise a suo tempo aveva fissato un massimo di 545 pale eoliche. Chissà perché non 546. Non sappiamo. Oppure abbiamo visto moratorie, quindi sospensioni a tempo indeterminato dei procedimenti di autorizzazione unica, mentre abbiamo visto l'altra volta che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento è un principio fondamentale della normativa. Oppure, certo. Hanno indicato delle aree vietate alla realizzazione degli impianti quando avrebbero potuto farlo solo a seguito delle linee guida. Anche abbiamo visto. Ecco, perché questo mi sembra un aspetto molto importante. Non è la regione che vieta di costruire in una certa zona. Se lì ci sono le condizioni previste nella normativa nazionale, o per esempio c'è un parco, c'è una comunità di qualche tipo, è quell'ente lì che al limite può dire no, qui non costruite. È questo il punto? Questo è corretto. D'altra parte le linee guida avevano questa funzione. In attuazione di esse le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Quindi al di là della singola area vincolata o inclusa nel perimetro di un parco per la cui localizzazione all'interno dell'area degli impianti è necessario comunque sentire il parco, per esempio, parco, certo, comunque l'ente preposto alla tutela dell'area, per invece individuare delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti occorreva attendere le linee guida. Ecco, da questo punto di vista poi la cosa paradossale è che esistono, mi pare, già diverse sentenze della Corte Costituzionale che sono delle risposte a delle impugnazioni di appunto società che volevano per esempio costruire e che si sono visti dire di no appunto sulla base di queste che noi abbiamo definito posizioni pretestuose. Sì, allora diciamo che la prima pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di linee guida che contenevano vincoli o divieti localizzativi è la 166 del 2009. che ha dichiarato legittimità costituzionale delle linee guida della Basilicata. D'accordo, ma poi a seguito ci sono stati altri casi in altre regioni, per cui una a una stanno cadendo, come dire, questi vincoli pretestuosi. Nel 2009 c'è stata la sentenza 282 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Molise, che anch'essa aveva introdotto dei vincoli, delle limitazioni. Poi nel 2010 c'è stata la sentenza numero 119 pronunciata contro la legge regionale pugliese, che tra l'altro aveva innalzato la soglia di applicabilità della denuncia di iniziatività. Ecco, mi sembra importante appunto chiarire una volta per tutte che il fatto che le regioni non possano assumere questo tipo di posizioni non significa, visto che in questi tempi si parla di olico selvaggio e di cose di questo genere, che chiunque può fare quello che vuole. No, assolutamente. Le norme ci sono, mi spiego. Se un impianto, ecco, abbiamo parlato di impianti eolici, però se un impianto eolico ricade su un'area vincolata ai sensi del codice dei beni culturali, non deve né essere autorizzato tout court né essere vietato a priori. Occorre che l'ente preposto alla tutela dell'area vincolata in questione faccia una comparazione in concreto delle esigenze di tutela dell'area rispetto alla esigenza di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ricordo che sono opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenti gli impianti a fonti rinnovabili. Grazie Lucia Bitto. Grazie a voi. Bene, per stasera è tutto. Domani parliamo della normativa che riguarda la cogenerazione. Buona serata.